America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, a Vienna si prende tempo ormai la scadenza per un accordo fra Iran e P5+1 per congelare sviluppi nucleari che potrebbero portare a una bomba atomica a Teheran, è stata portata al 7 di luglio. È il poker di Obama che attendavamo in materia di successi sembra girare a questo punto un pochino a vuoto. I successi sono stati, lo ricorderete, le sentenze della Corte Suprema che hanno approvato il suo programma per la riforma sanitaria, che hanno approvato il diritto dei gay a sposarsi a livello nazionale, i poteri negoziali speciali in materia commerciale. Ecco, quindi adesso sembrava che ci fosse un attimo di pausa, quando proprio ieri abbiamo avuto un'altra notizia storica. More than 54 years ago, at the height of the Cold War, the United States closed its embassy in Havana. Today I can announce that the United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba and reopen embassies in our respective countries. Presidente dice: più di 54 anni fa, all'apice della guerra fredda, gli Stati Uniti chiudevano la loro ambasciata a L'Avana. Oggi posso annunciare che gli Stati Uniti hanno deciso di ristabilire formalmente le relazioni diplomatiche con la Repubblica di Cuba e di riaprire le ambasciate nei nostri rispettivi paesi. L'ambasciata americana a Cuba fu chiusa nel gennaio del 1961 per ordine addirittura del presidente Dwight Eisenhower, quando c'erano tensioni crescenti con Fidel Castro. Poi queste tensioni sono andate avanti con l'amministrazione Kennedy, si è arrivati, lo ricorderete, al famoso episodio della Baia dei Porci, un tentativo di sbarco, il rischio di una crisi nucleare, il momento più buio della guerra fredda, e dopodiché è diventata una questione di principio. L'America, devo dire, un paese che non ha fretta, però per Obama questo non andava bene, ha deciso di accelerare questo processo e a questo punto sta pungolando il Congresso. I believe it's time for Congress to do the same. I've called on Congress to take steps to lift the embargo that prevents Americans from traveling or doing business in Cuba. We've already seen members from both parties begin that work. Ecco, Obama chiede al Congresso di eliminare, di cancellare l'embargo. È tempo per il Congresso di andare avanti, di cancellare l'embargo. L'embargo è come dire, l'ultimo baluardo di questo. Da guerra fredda tra Cuba e Stati Uniti. Pensate che ci sono soltanto 90 miglia tra i due paesi. Oggi ci sono legami profondi di famiglia, di amicizia fra i due popoli, perché tutte le famiglie cubane che scapparono 50 anni fa ormai hanno radici americane. Non è che pensano di tornare a Cuba, non è che vogliono andare a fare la rivoluzione. Sentiamo di nuovo Obama. A year ago it might have seemed impossible that the United States would once again be raising our flag, the stars and stripes, over an embassy in Havana. This is what change looks like. Un anno fa poteva sembrare impossibile che gli Stati Uniti avrebbero di nuovo alzato la loro bandiera a stelle e strisce su un'ambasciata a L'Avana. Ma quello che è successo oggi, azioni come queste, sono il simbolo stesso del cambiamento. Un cambiamento che è cominciato il 17 dicembre scorso, lo ricorderete, ci fu un annuncio, anche quello, storico, importante, uno scambio di prigionieri con Alan Gross, cittadino americano che fu arrestato 5 anni fa a Cuba, che è stato rilasciato. Gli Stati Uniti hanno rilasciato 3 agenti cubani, ma soprattutto si riaprirono le porte del turismo e c'è stato un ruolo importante del Papa in quell'occasione. I want to thank His Holiness Pope Francis, whose moral example shows us the importance of pursuing the world as it should be, rather than simply settling for the world as it is. Sua Santità Papa Francesco, ha detto Obama, ha fatto personalmente appello a me, al presidente cubano Raul Castro, attraverso lettere, ha fatto pressioni per una soluzione del caso di Alan e dell'interesse di Cuba per la liberazione dei 3 agenti cubani detenuti in USA da oltre 15 anni. On issues of common interest, like counterterrorism, disaster response and development, we will find new ways to cooperate with Cuba. And I've been clear that we will also continue to have some very serious differences. That will include America's enduring support for universal values like freedom of speech and assembly and the ability to access information. And we will not hesitate to speak out when we see actions that contradict those values. Di nuovo Obama, non dobbiamo essere i prigionieri del passato. La storia ha messo i nostri due paesi su posizioni molto diverse. Continueremo a sottolineare le differenze, per esempio sulla libertà di espressione. Però c'è stata una svolta, c'è stato un cambiamento e siamo certi che anche Cuba potrà procedere più rapidamente verso la democrazia. Prigionieri del passato è un termine chiave, perché in Europa, secondo me, lo siamo ancora. Vorrei chiudere la trasmissione trasmissione di oggi, tornando sulla Grecia e su quanto il leader greco Tsipras ha dimostrato di essere prigioniero del passato, di un passato garantista che non esiste più, e di averlo trasmesso questo suo pensiero alle fasce meno colte della popolazione con messaggi populisti. Ma ora il postulato sulla Grecia, anzi su Grexit, è semplice: trasformare una crisi che sembrava irreparabile solo domenica scorsa in una opportunità. E in questa chiave di lettura che si deve leggere la possibile virata del Fondo Monetario Internazionale, che potrebbe posticipare anche fino a 5 anni il pagamento di 1,5 miliardi di dollari, complessivamente insieme a un'azione della BCE potrebbero essere alleggerimenti per 13,5 miliardi di dollari. Questa cifra non è cosa da poco, come devo dire non era oneroso il piano della Troica. Sento in Italia persone che dicono: ah, la Troica vuole assolutamente massacrare la Grecia. Non è vero, la Troica chiede alla Grecia di aumentare l'età pensionabile a 58-62 anni, che è quello che abbiamo già fatto noi, è normale. Eppure Tsipras ha resistito. Ecco, questo ci dice che la questione greca non è più soltanto economica, ma è soprattutto politica. La sconfitta del no e delle rivendicazioni fuori dal tempo di un leader come Tsipras, questa sconfitta, se ci sarà, sarà anche la sconfitta delle forze nazionaliste, populiste, retrograde, che un po' dappertutto in Europa sono per la frammentazione, contro l'Unione, contro la moneta unica, sparano contro l'Europa. Se ci sarà questo referendum per l'Europa e contro l'uscita dall'Europa, sarà anche la sconfitta di questa brinkmanship, come si dice qua in America, del leader greco, cioè di questa sua spregiudicata, arretrata, poco informata spericolatezza. Bene ha fatto la Merkel a respingere ieri le aperture di Tsipras, a rimandare tutto a dopo il referendum. Le carte sono sul tavolo e ora, con i possibili sviluppi al Fondo Monetario, sono carte scoperte. Ecco dunque l'opportunità intuita, soprattutto a Washington, devo dire, alla Casa Bianca, è che la Grecia deve restare nell'eurozona, deve crescere, ha detto Barack Obama. Se questo messaggio, già rafforzato da possibili decisioni tecniche in gestazione anche al fondo, troverà un contrappunto nel risultato del referendum di Atene, beh, devo dire, l'Europa potrà accelerare il suo movimento in avanti piuttosto che soffrire di una battuta d'arresto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di Cuba, del fatto che a La Habana ci sarà la bandiera americana, ci saranno ambasciate, a Washington quella cubana e a La Habana quella americana, uno scambio amichevole. Non posso che proporvi come canzone, un simbolo, Guantanamera, che ha una storia Guantanamera, perché i versi sono stati scritti da José Martí nel 1878, il grande patriota cubano che combatteva contro la dominazione spagnola. Fu ucciso quello stesso anno, Martí, nel 1878, le sue parole furono poi musicate, quindi è una canzone che tutti conoscete, forse non tutti conoscevano questa storia. Ve la faccio ascoltare, sempre nel simbolo multiculturale, da un mio grande eroe, da Pete Seeger, che l'ha diffusa per primo negli Stati Uniti. Di Pete Seeger, Guantanamera, la contadina di Guantanamo. Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guantanamera, Guaira Guantanamera. Io soy un hombre sincero, donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir me quiero echa mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, de un verde claro y de un carmín encendido. Mis versos es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. Guajira Guantanamera, Guantanamera, Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani, goodbye and get going.